30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. L'estensione della calotta polare che copre l'Oceano Artico ha raggiunto un nuovo minimo storico, lo annuncia il professor Johannesen, vice direttore dell'Istituto Nansen per l'ambiente di Bergen in Norvegia, dopo aver raccolto gli ultimi dati arrivati dai satelliti. Mai così poco ghiaccio all'inizio dell'estate e così la curva che misura la media è scesa al di sotto di quella record del 2007. Se il trend dovesse continuare anche nei prossimi 90 giorni, il 2010 potrebbe portare a ridurre la superficie solida nell'Artico fino alla soglia critica dei 5 milioni di chilometri quadrati. Buonasera e benvenuti da Gigi Donelli. Questa sera parliamo di ambiente e di tecnologia. Si è appena conclusa nella città norvegese di Bergen una grande riunione che ha raccolto oltre 1300 scienziati impegnati nell'osservazione della Terra. A organizzarlo l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, che attraverso la sua rete scientifica e le costellazioni satellitari assicura il monitoraggio dell'ambiente e fornisce alla scienza i dati necessari a comprendere le evoluzioni in corso. Tra gli ospiti anche la NASA, le agenzie spaziali dei paesi emergenti, dalla Cina all'India. Quello dell'estensione della calotta polare di cui abbiamo sentito l'annuncio fatto a Bergen è uno dei parametri macroscopici di ciò che possiamo cogliere in tutta la sua evidenza solo grazie ai satelliti. È infatti dalla fine degli anni 70 che il ghiaccio marino viene tenuto sotto osservazione, ma non dobbiamo credere che sia una faccenda facile. Da un lato, infatti, la qualità delle immagini nell'osservazione ottica, la copertura nuvoloso, la luce durante il lungo inverno complicano parecchio le cose e spesso hanno confuso il quadro di insieme. Poi, quando la tecnologia è stata in grado di mettere a fuoco l'immagine, è cresciuta l'esigenza di catturare non solo l'estensione della calotta, ma anche il suo spessore. Oggi, grazie ai satelliti più recenti, come l'europeo Cryosat, possiamo osservare attraverso le nuvole, capire le dinamiche di accumulo, spingersi a misurare il volume del ghiaccio e di estendere dunque queste tecnologie ai ghiacciai antartici, a quelli della Groenlandia e anche a quelli delle Alpi. Volker Liebig è il capo del direttorato dell'ESA per l'osservazione della Terra. Lui a Bergen ci ha spiegato perché il sistema europeo si appresta a entrare in una nuova fase. Una fase in cui sarà importante non solo l'accuratezza del dato, ma anche il tempo di reazione e dunque di distribuzione delle informazioni raccolti dai satelliti, un tempo che evidentemente tende a diventare sempre minore. Abbiamo davvero bisogno di una osservazione continuamente, ma c'è anche altre case in cui abbiamo bisogno di un allerta. Per esempio abbiamo avuto questo terremoto a Haiti, abbiamo avuto il ash flow, il vulcano islandese che ha bloccato i voli in Europa con un impatto economico molto molto grave, o abbiamo questo incidente alla costa di Louisiana di olio, di petrolio. In ogni caso abbiamo fornito alla protezione civile e le forze che hanno lavorato in queste occasioni i dati necessari delle satelliti. E questi dati non sono sufficientemente veloci, non sono sufficientemente accurati oggi? Il momento tutto è su un base dei satelliti scientifici, ma da 2012 vogliamo avere i primi satelliti operazionali. Quindi è proprio una svolta dal satellite puramente scientifico a un satellite, diciamo, che in Italia diremmo indirizzato ai servizi di protezione civile e di allerta. Ecco, che cosa si aspetta Volker Liebig da queste giornate di Bergen? Abbiamo detto ci sono oltre 1300 persone, ricercatori, scienziati da 56 paesi del mondo. Sì, questa è la più grande conferenza dei scientifici nell'osservazione della Terra e loro presentano i risultati della ricerca dei ultimi 3 anni, perché abbiamo avuto un'altra riunione 3 anni fa e vediamo un grande progresso Per esempio, abbiamo lanciato in 13 ultimi mesi abbiamo lanciato tre nuovi satelliti. Uno si chiama Goce, una missione per campo gravitazionale. Un'altra che si occupa con la salinità del mare e l'umidità della terra. E una terza che misura l'altezza del ghiaccio alle pole, perché in momento sappiamo la larghezza del ghiaccio, ma non l'altezza. Questo è un sistema di radar molto innovativo e lo abbiamo lanciato in aprile. E abbiamo visto già i primi risultati qui, sono molto spettacolari. Abbiamo risoluzione per esempio del campo della gravità molto più alto che abbiamo mai visto e facciamo molto progresso in questi mesi. Ecco, c'è una grande complessità sia sul piano scientifico sia su quello organizzativo, perché naturalmente in un mondo, in un pianeta che è unico, mi viene naturale aggiungere una domanda che riguarda la collaborazione con gli Stati Uniti e con gli altri partner internazionali. Insomma, lo scambio di informazioni in passato è stato relativamente scarso, anche se il mondo scientifico ha fatto grandi sforzi. Ci sono passi in avanti in questa direzione? Assolutamente, abbiamo già deciso che il data policy per CMS, per esempio, deve essere completamente libero. Vuol dire che ognuno ha accesso ai risultati. Questo è importante, c'è un grande exchange dei dati con gli Stati Uniti. In momento noi abbiamo più dati che loro, ma anche NASA ha un sviluppo nell'osservazione della Terra. Il nuovo amministrazione negli Stati Uniti ha aumentato i soldi per il climate change e per l'osservazione della Terra. E così io vedo che abbiamo più cooperazione in futuro che in momento. La cooperazione è un elemento fondamentale, poiché ovviamente stiamo parlando di osservazione della Terra e nessuna zona è al di fuori del meccanismo globale. Pochi giorni fa il Consiglio europeo ha intanto approvato l'investimento da 107 milioni di euro per il programma delle Sentinelle. È una prima parte appunto per procedere. Con il sistema di navigazione satellitare Galileo, quella delle Sentinelle è il programma faro della Commissione europea in campo spaziale, ha rilevato il capo dell'ufficio di coordinamento del direttorato dell'ESA, Simonetta Cheli. Al programma dunque è stato finora garantito un finanziamento di 2,3 miliardi di euro dal 2005 in poi. Adesso però la scommessa è garantirne la sopravvivenza a lungo termine. Nel programma Sentinel gioca un ruolo importante anche l'Italia, non solo come Stato membro dell'Agenzia Spaziale Europea, ma per il suo coinvolgimento attraverso i dati dei satelliti Cosmos SkyMed e anche attraverso l'industria, poiché la Thales Alenia Space, quindi del gruppo Thales Finmeccanica, è capofila delle aziende europee coinvolte nel programma. La costellazione prevede il lancio di 5 satelliti, ognuno dei quali avrà un sosia per la fase B. Sono tutti in fase di sviluppo, tranne Sentinel 5 in fase di definizione. Un sistema che si fa via via più sofisticato e che comunque non sostituisce il ruolo delle persone, il ruolo della politica. I dati, insomma, arriveranno in maniera più rapida. Alla politica spetta dunque l'onere delle decisioni. E proprio di questo parliamo ancora con Volker Liebig. I satelliti mostrano che cosa è successo in momento, non sono modelli. Per esempio vediamo che la diminuzione del ghiaccio è molto più veloce che previsto nei modelli, anche dei modelli che hanno un'età di 3 anni solo. E questo va una evidenza che è molto importante per i politici, secondo me. Non c'è più dubbio che abbiamo cambi che sono molto, molto gravi. È drammatico, secondo me. Secondo me non c'è più dubbio, no. In momento il problema è più che cosa facciamo con questo. C'è un esempio molto positivo, che erano le decisioni per l'ozono, per esempio, il protocollo di Montreal. In momento vediamo che la tendenza dell'ozono, del buco, si inverte. Abbiamo già visto risultati da qualche anno che abbiamo un po' più ozono. Dobbiamo ancora osservare la situazione qualche anno di essere sicuro, perché l'errore è ancora più grande che la misura dell'ozono, ma siamo abbastanza sicuri. Insomma, i messaggi della scienza sono chiari, i politici non possono trincerarsi dietro la mancanza di informazioni. Esatto, le informazioni sono chiare, adesso abbiamo bisogno di decisione, e speriamo che il prossimo summit sarà un più grande successo che l'altro a Copenaghen. Grazie Volker Livik. 30 minuti in cronaca. Il più grande satellite meteorologico europeo, Envisat, non andrà in pensione alla fine di quest'anno, come era in un primo tempo previsto, ma continuerà a lavorare per almeno altri 3 anni. È uno degli annunci emersi da parte del direttorato dell'Agenzia Spaziale Europea per l'osservazione della Terra durante i giorni del convegno di Bergen. Envisat è il satellite che ha realizzato le recenti immagini della marea nera del Golfo del Messico, ma anche quelle del terremoto di Haiti e della nube di cenere del vulcano islandese. Costato 2 miliardi di euro, è grande come un autobus e ospita 9 diversi strumenti. Oggi però si cambia, dai grandi satelliti si passa ai più piccoli esploratori della Terra. Gli esploratori della Terra sono una famiglia di grandi raccoglitori di dati molto specifici, una famiglia di 8 satelliti, attualmente 3 in orbita, sono GOCE, sono SMOS e CryoSat, quelli lanciati. Allora Danilo Muzzi è il responsabile di questa famiglia di esploratori, allora lui chiedo innanzitutto di raccontarci che lavoro svolgono questi 3 satelliti già operativi. Sì, questi 3 satelliti, a cominciare da GOCE, che è il primo che abbiamo lanciato a marzo dell'anno scorso, è un satellite che è dedicato all'esplorazione del campo gravitazionale terrestre. Primo, diciamo, prodotto di GOCE, di fatto è stato detto, ha prodotto la Terra in forma di zucca. Sì, ci riferiamo al geoide, che in effetti è una superficie immaginaria, quindi è una caratteristica della Terra, e questa superficie immaginaria è quella che ci dice in qualsiasi punto di essa qual è l'orizzontale, quindi è una superficie equipotenziale del campo gravitazionale terrestre. Effettivamente, se uno guarda in dettaglio questa zucca, vede che non è molto uniforme, ci sono appunto delle protuberanze, e queste sono appunto dovute alle differenze che si hanno nel campo gravitazionale terrestre da punto a punto. Perché questo è importante? È importante perché se ci riferiamo per esempio alla parte del geoide che corrisponde alle superfici dove abbiamo gli oceani, questa superficie sarebbe quella che avrebbero gli oceani se stessero in uno stato di assoluta quiete, vale a dire se non ci fossero perturbazioni causate dalle maree, dalle correnti, dai venti. E invece di essere una superficie, diciamo, molto liscia, apparirebbe come una serie di ondulazioni, quindi di colline e di avvallamenti, dove ci sono dislivelli che vanno, diciamo, da più a meno 100 metri. Quindi l'oceano apparirebbe in questa forma, e questa superficie è effettivamente quella che noi utilizziamo come riferimento per misure di altezza. Quindi quando si dice, non so, che un certo villaggio, una montagna, un qualsiasi posto è ad una altezza tot dal livello del mare, effettivamente se uno riflette un attimino qual è il livello del mare, perché il mare cambia in continuazione, in effetti ci riferiamo a questa superficie che è il geoide. Quindi una conoscenza precisa di questo geoide, e con Goce ci prefiggiamo di ottenerla con un'accuratezza che va da 1 a 2 centimetri, permette per esempio di avere una determinazione rispetto a tutto il nostro pianeta di qual è il cambiamento annuale del livello dei mari e degli oceani. Quindi ci permette per esempio di vedere quant'è l'innalzamento dell'oceano intorno all'Australia rispetto alla parte per esempio del Nord Atlantico, perché queste misure possono essere riferite ad uno stesso riferimento, che è questo geoide. Naturalmente tutto questo assume una particolare importanza in tempi in cui il riferimento proprio all'innalzamento dei livelli del mare legati ai fenomeni di cambiamento climatico sono da un lato sulle prime pagine spesso, dall'altro generano spesso confusione. Sì, perché è importante appunto effettivamente seguire questi effetti, diciamo, globali a livello del pianeta con delle misure che siano effettivamente chiare e precise, che possano dare delle indicazioni su quali sono i trend. La conoscenza precisa del geoide ha anche altre applicazioni, sempre restando nell'ambito della oceanografia. Permetterà una migliore determinazione delle correnti oceaniche, soprattutto quelle in profondità. E perché questo è importante, conoscere meglio queste correnti, perché è tramite queste correnti che grossissime masse di acqua vengono spostate da un punto all'altro del nostro pianeta, e quindi con esse grandi quantità di calore vengono portate dalla zona equatoriale verso le zone dei poli. La corrente del Golfo è la più famosa per noi. Esattamente. E questo ovviamente ha un grosso impatto sul clima e sulla sua evoluzione. Questo per quanto riguarda Goce, poi SMOS. Il compito di SMOS è di misurare sulla terraferma l'umidità del suolo, mentre sulla parte, diciamo, dei mari la loro salinità. E queste due quantità sono molto importanti. La prima, quindi quella dell'umidità del suolo, per capire meglio il ciclo dell'acqua, quindi precipitazioni, l'evaporazione o il loro, diciamo, deflusso verso i mari. Quindi è un ciclo che gli scienziati cercano di meglio capire, perché anche questo ovviamente ha un grosso influenza sull'evoluzione del clima. Infine CryoSat, crio dunque il freddo, il ghiaccio. CryoSat permetterà di monitorare in maniera molto precisa l'evoluzione dei ghiacciai, sia essi sulla terraferma che sugli oceani. E anche questo è una conoscenza che è necessario affinare per cercare di effettivamente capire qual è, diciamo, la massa di ghiacciai che annualmente viene persa. Perché il fenomeno è abbastanza complesso. Notiamo che in alcune parti c'è effettivamente un incremento di queste masse dei ghiacciai e in altre invece c'è una diminuzione. Il trend mostra che il totale di queste variazioni è un deficit che mano a mano si sta accumulando. Perché delle missioni separate? Cioè, perché ogni satellite diventa specializzato? Per adesso effettivamente questa è la strategia, diciamo, che è stata adottata e permette di rispondere in maniera più sollecita alle richieste che vengono dalla comunità scientifica, quindi permette anche di essere più, come dire, flessibili e e di scegliere a seconda appunto delle necessità queste missioni che sono effettivamente molto più piccole di quelle che sono state fatte 10 anni fa, tipo Envisat o prima di Envisat IRS-1. È vero che attraverso l'affinamento continuo di queste modalità di acquisizione dei dati, la ricerca, la scienza è in grado di costruire dei modelli previsionali che di fatto anticipano gli eventi? Sì, diciamo, la prima dimostrazione è quella, diciamo, classica delle previsioni meteorologiche che sono state mano a mano affinate e quindi sono diventate, diciamo, più affidabili, e anche, diciamo, la loro affidabilità adesso è su dei periodi di tempi più lunghi. L'acquisizione di questi parametri fondamentali tramite questi satelliti in effetti contribuirà all'affinamento di questi modelli che ci permettono di anticipare e quindi dove c'è la necessità si spera anche di prendere le necessarie decisioni per prevenire delle situazioni che possono diventare, diciamo, critiche in futuro. Tipo, se ne parla molto in questi tempi, l'effetto serra, il surriscaldamento, possibili effetti, diciamo, meteorologici di intensità molto elevata. Ma anche inondazioni e terremoti, si chiede l'opinione pubblica? Inondazioni sì, perché appunto è collegato alla previsione meteorologica. Per quanto riguarda terremoti, per adesso siamo ancora nella fase di affinamento dei modelli, quindi di migliore comprensione di quali sono, diciamo, i fenomeni che sismici che poi danno luogo a questi terremoti. Per la previsione ancora non siamo alla maturità della conoscenza che ci permette di farle. Grazie dunque a Danilo Muzia, a Volker Liebig, grazie all'Agenzia Spaziale Europea. Questo appuntamento si conclude qui, non mi resta che ringraziare anche Carmelo Lauricella in regia, voi per essere stati con noi questa sera. Vi ricordo radio24.it per sentire, risentire questo e tutti i programmi di Radio 24. Un ottimo fine settimana a tutti voi.